29770, 29770, devo fare di nuovo, eh? A svegliare quel grande bagasse, mamma tua! Ti è entrato il rompiballe, che pena che voi, Graziella, tanto su questo stronzo, ti frega che te ne faccio scusare il tasto di casa suia. Adesso faccio il 24, 3364, ne svegli.